voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I have a sentimental weakness for my children and I spoil them as you can see. They talk when they should listen. Era una notte che faceva spavento, veramente scantusa. Il non ancora decino Gerd Hofer, ad una truniata più scatasciante delle altre, che fece tremoliare i vetri delle finestre, si arrisbigliò con un salto, accorgendosi nello stesso momento che irresistibilmente gli scappava. Era una storia vecchia, questa della scappatina di pipì. I medici avevano diagnosticato che il piccilidro era lento d'incascio, cioè di reni, fin dalla nascita, e che quindi era naturale che si liberasse a letto. Ma il padre, l'ingegnere minerario Fridolin Hofer, da quell'orecchio mai aveva voluto sentirci, non si dava pace d'aver messo al mondo un figlio tedesco di scarto, e quindi sosteneva che non si trattava di cure, ma di kantiana educazione della volontà, per cui ogni mattina che Dio mandava in terra si metteva a ispezionare, sollevando coperte e lenzuolo a secondo di stagione, il letto del figlio, e infilata la mano inquisitoria al subito immancabile vagnaticcio, reagiva con una potente timbulata al bambino, la cui guancia colpita a vista d'occhio pigliava a gonfiarsi come un muffoletto di pane ad opera di lievito di birra. Questo era l'incipit del Birraio di Preston di Andrea Camilleri. All the way from Pettenweem to the rock and roll dream, all the way from East Newquay to the of the band, and when those stars dug out rhythms like black diamonds. But cruising down Route 66, did you dream of lochs and highlands? Nella seconda parte di questo primo volume di Eclettica già hai avuto occasione di ascoltare gli Toys Orchestra e poi l'incontro fra musicisti e scrittori scozzesi, nel caso specifico era Aidan Moffat. I riferimenti di Eclettica per creare un contatto diciamo così privato, l'indirizzo di mail a giulio@radiorockfm.com, che però serve anche per l'iscrizione alla lista nera di questa trasmissione in modo da ricevere le playlist settimana per settimana. Invece un contatto più pubblico è quello che è legato all'indirizzo myspace.com/eclettica. wanted this for you. I worked my whole life. I don't apologize to take care of my family. And I refused to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. I don't apologize, that's my life, but I thought that but when it was your time, that you would be the one to hold the strings. Senator Corleone. Governor Corleone. Something. Another pezzo novanta. This wasn't enough time, Michael. Wasn't enough time. We'll get there, Pop. We'll get there. Thank you. A stimare da come l'alba stava presentandosi, la giornata s'annunziava certamente smeusa, fatta cioè ora di botte di sole incaniato, ora di gelidi stizzichii di pioggia, il tutto condito da alzate e improvvise di vento. Una di quelle giornate in cui chi è soggetto al brusco cangiamento di tempo e nel sangue e nel cervello lo patisce, capace che si mette a svariare continuamente di opinione e di direzione, come fanno quei pezzi di lattone, tagliati a forma di bandiera o di gallo, che sui tetti ruotano in ogni senso ad ogni minima passata di vento. Questo era l'incipit del Cane di Terracotta, di Andrea Camilleri. Hai appena riascoltato gli I Was a Cub Scout, formazione inglese, il cui pezzo era stata occasione anche per una simpatica tiratina d'orecchie via mail da un ascoltatore che non era del tutto soddisfatto, a ragione, di una mia traduzione imprecisa del titolo del pezzo. Però io voglio parlarvi soprattutto del brano che vi siete ascoltati per la prima volta proprio prima dell'ultimo incipit di Andrea Camilleri, brano dal titolo Sleep of Shalom, che proviene da Baltimore, Maryland, dove fa base la formazione Arboretum, formazione che proprio in questo periodo è in tour negli Stati Uniti con un altro nome che trovate frequentemente all'interno delle scelte di Eclettica, ovvero sia quello di David Carsten Daniels. With you, oh. you how to hide in the crowd. Give me a needle and a clean it for you. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 30, volume numero 1. Indice: Windmill, Urlaubin Polen, Underground Railroad, Bright Eyes, Bar, Benny Ham Ham, A Toys Orchestra, Aidan Moffat, Junior Boys, Arboretum, I Was a Cub Scout, Black Eyed Dog. Il film: The Godfather, Gli Incipit, Le ali della Sfinge, Gli arancini di Montalbano, Il birraio di Preston, Il cane di terracotta, tutti di Andrea Camilleri.